La stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Più niente al mondo, suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, sulle immensità del cielo, per te e per me. Thank you.